Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori per affrontare un altro tema, purtroppo di attualità e purtroppo non felicissimo, è la disoccupazione giovanile. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, i dati li ha pubblicati l'Istat nei giorni scorsi, 12,9% il tasso generale di disoccupazione in Italia, siamo tornati ai livelli del 1977, per quanto riguarda i giovani, fascia 15-24 anni, la disoccupazione è salita al 42,4%, una crescita di mezzo punto percentuale rispetto appena al mese di dicembre. Che dire, Carlo? Sì, innanzitutto Mirko, credo che di fronte a questi dati c'è veramente da riflettere, perché sinceramente dire qualcosa significa solamente dare poi su quella che è l'incapacità da parte di chi ci governa veramente ad attuare delle iniziative forti, concrete, che possano incentivare i giovani a trovare un'occupazione. Oggi i giovani stanno subendo due aspetti di questa crisi molto importante, dall'altra certamente una mancanza di offerta che non determina certamente non determinano delle opportunità, dall'altra il fatto che anche chi offre questa opportunità le sta offrendo sempre più al basso, perché sono consapevoli che nella disperazione certamente chi si propone non si propone con un certo potere contrattuale, ma deve accettare qualsiasi cosa. Addirittura la Banca d'Italia tempo fa aveva diffuso come oggi gli stipendi di ingresso per chi trova un lavoro addirittura sono più bassi rispetto a quelli che erano in lira nel 1980, quindi certamente uno scenario che complica un po' tutte le cose e che poi ha anche come conseguenza quello di vedere questi giovani certamente sempre più scoraggianti, perché veramente andare in cerca di un lavoro oggi non è più una questione di nord o di sud, ma veramente una questione di mancanza di offerta, e certamente secondo me qua veramente dovremmo fare una seria riflessione per capire che un paese senza giovani non è certamente un paese che può sperare di avere un futuro. Ecco, c'è questo dato tra i giovani italiani sempre meno occupati. È anche vero che i giovani italiani in numero assoluto, in valore assoluto, insomma, non sono molti, perché la popolazione italiana, lo sappiamo, sta invecchiando a lungo termine, cioè nella prospettiva dei 40-50 anni. Questo vuol dire che le pensioni chi le pagherà? Le pensioni chi le pagherà? Io vorrei innanzitutto raccontare una piccola storia di un signore che è venuto all'Adico, che ha 57 anni, 56 anni, sta pagando un mutuo e si è trovato a aver perso il lavoro e dire sono troppo giovane per andare in pensione, sono troppo vecchio per cercare un posto di lavoro. Se da un lato abbiamo un tasso enorme dei giovani, certamente è anche vero che il problema più grosso, a mio avviso, sono chi si trova in una fascia d'età compresa tra i 40 e ormai bisogna dire i 60 anni, che certamente avrà più grossi problemi, perché certamente avranno più difficoltà ad inserirsi in un mercato che sta diventando sempre più competitivo. Per quanto riguarda le pensioni, oggi come oggi è una domanda veramente molto importante che ci vuole coraggio a dare una risposta, perché innanzitutto i giovani, come è strutturata oggi il sistema pensionistico, sostanzialmente bisogna dire non avranno la pensione, chi ce l'avrà avrà sino al 40% di chissà cosa. Dall'altro canto è anche vero che chi lavora si è già accorto questi ultimi anni come praticamente ha dovuto destinare tutto il TFR e quota parte anche dello stipendio per cercare di incrementare quello che la pensione dovrebbe dare, che sostanzialmente oggi non è più in grado di dare, perché anche oggi si va in pensione non si sa più quando, perché è stata l'età, è stata legata alle prospettive di vita, però si va in pensione con il 60% e bisogna capire che destinare il TFR o altre iniziative di questo genere è un modo per incrementare la pensione, ma è stato anche un modo per continuare a svuotare le tasche degli italiani, per cui certamente oggi io non so chi è in grado di dare delle garanzie o delle assicurazioni, ma certamente è un sistema che fa acqua da tutte le parti. Leggo anche un altro dato pubblicato poi nei giorni successivi, confermato anche a livello regionale dalle Camere di Commercio, cioè la diminuzione della spesa alimentare anche negli ultimi mesi del 2013. È vero che probabilmente i dati su cui si fa il confronto erano positivi o troppo positivi, cioè quelli degli anni scorsi, che magari si sprecava tanto e già ne abbiamo parlato, però che la spesa alimentare negli ultimi anni continui a decrescere 1,5-2% ogni anno, dove ci porterà? Ah, e questi sono i dati sull'alimentare. Se dobbiamo andare a verificare sui dati che le persone sulla sanità, in cui le persone non sono più in grado di fare prevenzione, perché ormai anche i corsi di accesso alla sanità stanno diventando sempre più proibitivi e scoraggianti, veramente Dio dove ci porterà non si sa. Certo che ormai sappiamo che i consumatori, le famiglie cercano i prodotti in offerta, hanno cambiato le abitudini a tavola, mangiano si arriva a mangiare anche i cibi scaduti, si mangia meno carne, si mangia meno pesce, si cerca di riciclare anche quelli che sono gli avanzi. Certamente oggi pensare dove si va di questo passo, io non voglio essere pessimista, però vorrei anch'io essere incoraggiato ricevendo dei dati positivi, e oggi dati positivi non ne vediamo. Il debito italiano continua ad aumentare, malgrado aumenta la spesa pubblica, malgrado lo spread sta diminuendo, quindi non ci si può neanche più nascondere dietro anche delle situazioni che dipendiamo da certi scenari, da certe situazioni internazionali, perché sinceramente la possibilità di poter fare qualcosa ce l'abbiamo. Sostanzialmente secondo me manca la capacità veramente di ingegnarsi, perché oggi l'unica formula per poter adottare, per poter uscire da questa crisi, o si ragiona dando degli incentivi e degli sgravi fiscali per chi assume, per chi investe, per chi fa impresa, e si cerca di dare potere d'acquisto a chi ha una busta paga, oppure continuando a inasprire, certamente andrai comunque a creare solamente delle sofferenze che oggi comunque chiunque di noi può vedere, che basta camminare in qualsiasi città, in qualsiasi località, vediamo case in vendita, negozi con sale cinesche giù, e la cosa peggiore è che tutti i negozi che vediamo sono sempre gli stessi, solo catene di franchising delle solite marche. Non esiste neanche più la piccola sartoria o il piccolo imprenditore che si inventa di fare qualcosa. In effetti, proprio sui dati di vendita, gli unici dati positivi, di poco ma positivi, riguardano i grandi centri commerciali e gli ipermercati. Ovviamente i dati su cui noi abbiamo ragionato sono a livello nazionale, diciamo che nel nostro territorio le cose vanno, non dico meglio, ma forse un po' meno peggio rispetto al resto del territorio, consolazione piuttosto magra, dobbiamo dire, nello spirito repubblicano di tutto il nostro Stato. Noi ci ritroviamo la settimana prossima con l'Adico, con altri due argomenti da affrontare. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.